un'altra storia a noi. Intanto un'altra notte se ne va, oh oh oh oh. E ancora un altro viaggio, ancora un altro via, e ancora un'altra storia a noi. Intanto un'altra notte se ne va, oh oh. Un altro viaggio, un altro inizio. Corrono le ore come i sogni che realizzo, e cambia lo scenario così come il mio indirizzo. Che inizio come un gioco, a poche poche come un vizio. C'è chi viaggia nella rete, io viaggio come Goethe, che spiega che viaggiare è come vivere due volte. Primo che la vita in sé, il secondo ogni secondo che passi per la strada fuori casa ad anche sola, dimmi a cariti. E non si invecchia ma puoi crescere, e se non senti più le gambe ma non smettere. Ehi, ehi, fermati solo se non sai da dove prendere, perché anche da fermo ti puoi girare e vedere che non si invecchia ma puoi crescere, e se non senti più le gambe ma non smettere. Ehi, ehi, fermati solo se non sai da dove prendere, perché anche da fermo ti puoi girare e vedere che è ancora un altro viaggio, ancora un altro via, e ancora un'altra storia a noi. Intanto un'altra notte se ne va, wow, wow, wow. E ancora un altro viaggio, ancora un altro via, e ancora un'altra storia a noi. Intanto un'altra notte se ne va, wow, wow, wow. E quindi appena albeggia me ne parto per un posto scritto dall'inchiostro in capo a sto biglietto. E sempre quell'inchiostro va a riempire d'emozione le parole che ora mi escono di getto. E chiudo le valigie se ci riesco e poi le metto qui vicino e dalla porta dove esco. E sembra sì impossibile ma sono già al corrente, più difficile è il viaggio di ritorno. Sento che tutto quello che ricevi poi diventa indispensabile, sempre se una volta assimilato lo mantieni incancellabile. E non ce n'è posti dove qualcosa si pone incomprensibile. Resta a te, lo chiudi nel tuo cuore e lo trasportano le vene. E ancora un altro viaggio, ancora un altro via, e ancora un'altra storia a noi. Intanto un'altra notte se ne va, oh oh oh oh. E ancora un altro viaggio, ancora un altro via, e ancora un'altra storia a noi. Intanto un'altra notte se ne va, oh oh oh oh. Benvenuto, benvenuto Lorre, complimenti, siamo qui, domani vediamo. Ciao mortali, è un mondo difficile, sempre avanti. Capisci?